Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Insargante il traghettatore, arte e cultura sostenibile. Siamo in estate, quindi la sostenibilità si trasporta sulla spiaggia, ed è il caso di Posidonia Festival, che ha abbinato a Ocean 2012 la rete internazionale di 150 organizzazioni che sono attive per la riforma della politica della pesca e per la salvaguardia dei fondali marini. Questa edizione è contraddistinta da percorsi didattici guidati, escursioni e itinerari nelle oasi Lipu. Antonio Gaudioso è il nuovo segretario generale di Cittadinanza Attiva. Buongiorno ad Antonio Gaudioso. Buongiorno a te. Una prestigiosissima associazione, come dice la parola stessa, di cittadini che da quanti anni, Antonio, ci accompagna nella difesa dei diritti civili? 34 anni ormai. Quando ho iniziato io avevo 6 anni. Ed eri già dentro, scommetto, sì. Esatto, esatto. Ho iniziato dall'inizio. Ed è nato sotto un'altra veste, se non ricordo male. Sì, come Movimento Federativo Democratico, e subito dopo la sua nascita è nata la prima iniziativa, forse quella più famosa, che è quella del Tribunale per i diritti del malato. Oggi Cittadinanza Attiva è una realtà molto complessa, di cui noi giornalisti sentiamo parlare continuamente, e ha aperto tantissimi fronti. Riesce ad elencarceli tutti? Beh, diciamo che ormai siamo presenti su molti fronti, che sono dalla salute alla tutela dei diritti dei consumatori, ai problemi legati alla lunghezza dei processi e quindi alla giustizia civile e amministrativa, ai problemi legati alla scuola, all'ambiente. E ci sono poco più di 100.000 volontari che quotidianamente presidiano circa 500 sedi sul territorio nazionale. E per quanto ci riguarda, un impegno civico che soprattutto in una fase come delicata come quella che stava attraversando il paese è fondamentale, anche per garantire la coesione sociale, che soprattutto in momenti di crisi è un valore per impedire derive che non sono accettabili. Qual è la differenza fra questo momento storico dal vostro punto di vista e ancora pochi anni fa, prima che esplodesse la crisi? La vostra attività, cioè avete più domanda ma meno risorse? Sì, fondamentalmente sì, hai fatto una sintesi perfetta, perché il problema è che quando le cose vanno male la richiesta di tutela e il bisogno di garantire i diritti è sempre più elevato, soprattutto un po' per tutte le fasce sociali del nostro paese, dal nord al sud, e anche le persone che fino a qualche anno fa erano considerate classe media o abbastanza agiata, in questa fase storica hanno delle pesanti limitazioni ai propri diritti, per cui la nostra presenza, la presenza di tante organizzazioni di cittadini, mai come in questo momento, è fondamentale. Abbiamo pochi secondi, Antonio, per chiudere, facciamolo con il prossimo appuntamento a cui state lavorando. Beh, da questo punto di vista un'attività fondamentale di cui ci stiamo occupando è la garanzia della lotta alla fuel poverty, che soprattutto con l'aumento dei costi dell'energia rischia di mettere sull'astrico le famiglie. Nei prossimi mesi sarà una delle nostre battaglie più importanti. Nei prossimi mesi ci incontreremo allora ancora. Grazie e complimenti, Antonio. Con piacere, a presto. Alla prossima. L'estate solidale dei giovani, il Movimento Internazionale per la Giustizia Emmaus, fondato dall'Abbé Pierre, organizza i campi di lavoro in Italia e all'estero per poter condividere le proprie vacanze, il lavoro e la propria solidarietà. Molti laboratori, anche svago. Quest'anno l'appuntamento con i campi Emmaus in Italia in 4 città, da oggi al 5 agosto a Boves, che è in provincia di Cuneo, dal 29 luglio al 12 agosto a Erba, provincia di Como, dal 19 agosto al 2 settembre a Fiesso Umbertiano, che è in Rovigo, poi ancora a Villafranca vicino a Verona, invece per tutta l'estate. È tutto per oggi, vi ricordo le pagine Facebook di Ferribot Radio 24, grazie ad Anita Panizza in redazione e a Valeria Bernardi in regia. Alla prossima.